Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. I ragazzi rimasero altri 7 giorni a casa mia e addirittura i dirigenti argentini vollero che io giocassi una partita con loro. Il regolamento lo vietò, ma ormai ero diventato un membro della squadra, un oriundo. Sono Massimiliano, ho 30 anni, sono un insegnante di sostegno presso la scuola primaria, vivo e lavoro a Bergamo, ma sono campano di Cava dei Tirreni. Ci abbiamo messo all'incirca 12 minuti, quasi 15, a cercare di venire a capo della precisa definizione del termine oriundo nella redazione di Voi Siete Qui. Ci siamo messi 4 teste, e che teste? Parlo di Tiziano, parlo di Paolino e Margherita e il sottoscritto, per cercare di capire esattamente cosa significa, banalmente, no? Originario di un determinato luogo, detto in genere di chi, nato e residente in una città o in una nazione, discende da genitori o antenati la trasferitesi dal paese d'origine. È abbastanza semplice, però se voi vi fermate a pensarci, un pochettino le cose si complicano in realtà, perché dicevo, ad esempio, il mio maestro di tennis, che è di origini argentine, cioè è nato in Argentina a Rosario, ma aveva genitori trentini, quindi i genitori erano italiani, lui è in Argentina ma vive in Italia, lui è oriundo argentino e oriundo italiano. E qui le cose si complicano. 349-238-6666. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e il programma è sempre Voi Siete Qui. Ogni giorno una piccola storia, un pezzo di vita di qualcuno che voglia di condividerla. In mezz'ora, dalle 16 alle 16.30, vi raccontiamo qualcosa che appartiene più o meno a tutti, o perché ci è simile, o perché ci è successo, o perché ci succederà, o semplicemente perché ha a che fare con gli esseri umani e quindi è un pochettino anche nostra. Oggi abbiamo chiesto semplicemente sul profilo Facebook di Voi Siete Qui, che Voi Siete Qui Radio 24, di quale paese vorreste essere oriundi, e una delle risposte migliori che è arrivata è stata: ma che domanda è? In genere le fai di migliori. Ed effettivamente, Andrea, un pochettino hai ragione, non che si facciano domande migliori o peggiori, però era molto secca, e devo dire che vince totalmente l'Argentina. Argentina, Spagna, Brianza, Svezia, Scozia, Islanda, Argentina, Nuova Zelanda, Danimarca, Brasile. Io sono italo-norvegese e va benissimo così, scrive Tatiana. 349-238-6666. Nel frattempo ci ha scritto, proprio direi casualmente, una mail dal titolo Asado, Gaston, che scrive: ciao, il mio nome è Gaston, sono argentino e abito a Buenos Aires. Seguo il vostro programma dai tempi di Io Sono Qui ed è un piacere ascoltarvi tutte le giornate. Nel documento vi invio una mia storia sul modo in cui sono venuto a imparare a cucinare il nostro piatto tipico, cioè l'asado. Mi scusi in anticipo per gli errori, figurati. Ci sono un po' di ascoltatori che lo abbiamo scoperto grazie alle amiche spagnole di Cáceres, che ci sono un po' di ascoltatori stranieri che utilizzano, e insomma ne siamo felicissimi. Voi siete qui per imparare la lingua, per migliorare l'italiano, o semplicemente perché hanno piacere di sentire quel suono lì, il suono della lingua italiana, come spesso ci capita di ascoltare altra roba anche se non capisci, solo perché ti piace quel suono. 349-238-6666. Ma soprattutto, se siete all'estero e ci ascoltate un po' per imparare l'italiano e un po' semplicemente perché volorete sentirvi a casa, voi siete qui, @radio24.it. Torniamo alla storia di Massimiliano, che parla di essere oriundi, ma parla soprattutto di un amore oltre che filiale. Sono un grande appassionato di calcio e sin da piccolo, da buon campano, sono stato folgorato dalla figura di Maradona. Ero un discreto calciatore ed ho giocato nelle categorie minori dilettantesche. Grazie al calcio ho visto posti nuovi e conosciuto culture diverse, in quanto ho partecipato a diversi tornei all'estero. È grazie al calcio che ho incontrato quelli che oggi definisco i miei fratelli, il mio papà e la mia famiglia argentina. Nel 1994, nella mia città, si è svolto un torneo di calcio internazionale al quale, oltre a diverse delegazioni straniere, ha partecipato una squadra argentina di Cordoba. In quegli anni, affascinato dalle gesta del mio idolo, ero diventato curioso e appassionato di tutto ciò che riguardava la sua terra d'origine. Quando appresi la notizia che una squadra sarebbe arrivata da quel paese lontano per partecipare al torneo, non riuscii più a starne nella pelle. Sapevo che i ragazzi venivano ospitati da famiglie locali, quindi pregai i miei genitori di ospitare almeno un ragazzino argentino a casa per il periodo del torneo. In questo modo avrei potuto stringere una nuova amicizia e alleviare la fame di curiosità verso tutto ciò che riguardava quello che ormai era diventata la mia seconda nazione. Prima della, diciamo, dell'avvento di Maradona a Napoli sapevo che era una nazione del Sud America, ma non è che conoscessi tantissimo, diciamo. Ero un bambino comunque, ero piccolo. I miei genitori, appresa la notizia, pensarono bene di ospitarne addirittura due. E cominciò così una settimana indimenticabile. Fu allora che conobbi dapprima i miei fratelli, Luciano e Daniel, che erano ospiti a casa mia. E poi, subito dopo, Daniel, anche lui, papà di Luciano, che era anche accompagnatore della selezione. Non ci fu minuto, secondo, che non condividemmo. Partite, cene, pranzi, gite agli scavi di Pompei e Capri, ormai eravamo diventati un trio inseparabile. Sembrava fossimo stati separati alla nascita. Con papà Daniel poi si instaurò un rapporto così particolare che ancora oggi faccio fatica a spiegare. La loro settimana a Cava terminò e si spostarono per altri 7 giorni nella vicina Salerno. I ragazzi rimasero però tutti e 7 giorni a casa mia e addirittura i dirigenti argentini vollero che io giocassi una partita del nuovo torneo con loro. Il regolamento lo vietò, ma ormai ero diventato un membro di quella squadra, un oriundo. Pur non giocando ricevetti la mia maglia a righe verticali bianche e azzurre come la nazionale. Andavo in panchina in tutte le partite e partecipavo agli allenamenti. Purtroppo quella bella avventura finì presto e i ragazzi tornarono al loro paese. Da quel giorno promisi a me stesso che sarei andato di nuovo da loro. Nel corso degli anni ci siamo scritti lunghe lettere e sentiti telefonicamente ogni qualvolta riuscivamo. E poi, nel 2007, dopo 13 anni, ho deciso che era giunto il momento di andare. Mi mancava qualcosa, come un vuoto da colmare. Lavorai sodo tra un esame universitario e l'altro e raccimolai i soldi per il viaggio e per un giro turistico. Partii da solo, con un piccolo zaino in spalla. Non avevo paura, sapevo di andare a casa. Sono stato un mese e mezzo in Argentina, toccando anche il Brasile, l'Uruguay, diciamo le zone di confine, e mi sono trattenuto con loro circa 15 giorni. Li sento sempre, adesso grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, quindi a Facebook, Skype, ho la possibilità anche di vederli, cosa che non accadeva, diciamo, prima dell'avvento di questi supporti. Arrivai alla stazione dei bus di Cordova dopo che ero in Argentina già da una settimana. Aspettai ad andarci subito. Avevo un po' paura di rivederli, di vederli cambiati. Scesi dal pullman dopo 13 ore e mezzo alle Pampas. Lì ad aspettarmi c'era papà Daniel. Era cambiato, un po' più grasso, invecchiato. Il volto pieno di rughe cariche di vita devastata dalla crisi. Ricordo solo che i nostri sguardi si sono incrociati e ci siamo persi in un lungo abbraccio, condito da lacrime reciproche. Arrivati a casa, è stato il turno di Luciano e poi di Daniel. Abbiamo trascorso ancora 15 giorni insieme, notte e giorno, come fratelli. È stata un'esperienza fantastica che mi ha arricchito. Ho visto grazie a loro posti bellissimi, ma anche luoghi pericolosi che sembravano dimenticati da qualsiasi dio. Ho visto la forza di un popolo che ha subito dapprima le nefandezze del governo militare, poi della spaventosa crisi. Un popolo che ha perso tutto a causa delle politiche scellerate dei governi che si sono succeduti, ma che non ha perso la dignità e il coraggio. Sono un ragazzo fortunato. Ho due famiglie, una in Italia e una in Argentina. Lo scorso anno ho presentato domanda per l'insegnamento all'estero, in Argentina ovviamente, con la speranza di poter essere chiamato quanto prima a svolgere il mio lavoro proprio là, in quella terra che oggi è casa mia. Revolucionar apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado, me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz. Me amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz. Io sono in casa, io sono di casa, io mi sento a casa. Queste tre frasi le scrive una sopra l'altra, sulla lavagna, il maestro Valerio Mastandrea in una bella scena di un film che si chiama La mia classe, di Daniele Gaglianone. Mastandrea interpreta un maestro per extracomunitari di tutto il mondo, dal Brasile all'Ucraina, dall'Africa all'Iran. E in quella scena lì insegna alla sua classe quali differenze semantiche ci sono in queste tre frasi, per quanto abbiano una costruzione molto simile. Noi possiamo essere di casa in un luogo in cui non ci sentiamo a casa, oppure possiamo essere in casa ma non essere di casa, oppure ancora possiamo sentirci a casa per una particolare affinità anche in un posto lontano, in mezzo a persone che conosciamo molto meno di tanti altri che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Un po' come quando si va in vacanza da qualche parte, no? Andare in vacanza è sempre bello, solo che certi posti ti stregano e non se ne vanno più. Altri invece ti piacciono perché sei in vacanza, però non scatta una scintilla. Succede anche con le persone. Con alcuni si può dividere la casa, con altri invece ci si sente a casa. Da adulti siamo meno propensi a queste distinzioni. Tendiamo a semplificare, forse per pigrizia o per stanchezza, o semplicemente perché abbiamo già scelto qual è il nostro posto. Però nei bambini questa cosa è molto evidente. Me ne sono accorto guardando il figlio del mio amico Mauro, Olmo. Per i suoi 7 anni, qualche mese fa, Olmo ha invitato alla festa di compleanno tutta la classe, come fanno i bambini all'elementare. La classe di Olmo a Roma è piuttosto piccola, però ci sono bambini di tutto il mondo. Ci sono marocchini, italiani, rom, peruviani, una giapponese e un cinese. A scuola sono tutti amici, ma al pomeriggio, quando la scuola finisce, ovviamente ognuno torna un po' nel suo mondo, no? Nel mondo dei grandi. Sono i grandi a decidere quali sono le case giuste per loro. Quel giorno, all'uscita della scuola, Olmo fa come fanno i cani da pastore con le mucche. Richiama tutti, li mette in fila per andare a casa a piedi, li corre incontro e parla ad alta voce. Li ha raccolti tutti quando si accorge che manca Jacopo Zhu, che è il suo compagno cinese. Lui va sempre a casa col fratello più grande e con la nonna. Olmo vede da lontano le sagome che si stanno allontanando e li rincorre, trascinando per mano suo papà, Mauro. Una volta raggiunti, chiede alla nonna se Jacopo può andare al suo compleanno. La nonna si fa tradurre in cinese dal fratello più grande e dice di sì. E a Jacopo spuntano i lucciconi per la contentezza. Saluta la nonna e si ricompatta con i suoi amici, quelli con cui si sente a casa. La nonna fa gli inchini a Mauro e poi rincorre i bambini che intanto sono partiti da soli. Solo quando la festa finisce e tutti vanno via, si accorge di non sapere dov'è la casa di Jacopo. Mauro non ha né l'indirizzo né il numero di telefono. Un bambino di 7 anni però ormai è grande, e anche se la sua prima lingua è il cinese, è di casa nella metropolitana di Roma. Così prende per mano Mauro e insieme si avviano. Scendono a Piazza Vittorio, dove c'è il ristorante cinese della famiglia. Jacopo abbraccia il papà, gli presenta il papà del suo amico Olmo e poi se ne torna a casa. Immagino che l'abbia scattata durante quel viaggio in Argentina, la foto che ci ha mandato e che, come al solito, trovate sul nostro sito, alla nostra pagina. Voi siete qui sul sito di Radio 24, radio24.it. Massimiliano ha un cappello in testa verde, alle sue spalle c'è una sorta di deserto piuttosto arido. C'è un bel sole, ma soprattutto ha in braccio una ragazzina che ha la pelle e gli occhi quasi indiani, ma quasi indiani d'America. Pronto, Massimiliano? Ciao Matteo, buongiorno. Come stai? Benissimo, grazie. Dove ti trovi in quella foto? In quella foto mi trovo a Sant'Antonio de los Cobres, nella Quebrada del Toro, uno dei paesi più alti, se non mi sbaglio il comune situato nel posto più alto dell'Argentina, sopra i 3300 metri, al confine con il Cile più o meno. Okay. Punta di Atacama. Quindi la bambina che hai in braccio è cilena? No, è argentina. È di etnia quechua, credo. Era una bambina che ho incontrato lì per strada. Si recavano in questo posto. E l'hai presa in braccio e si è fatto una foto, banalmente? In pratica loro camminavano e volevamo fare delle foto, e i più grandi di questo gruppetto di bambini ci hanno detto no, che volevano del denaro, plata, no? Certo. E allora noi abbiamo offerto invece delle caramelle, Ma questa bambina qui non era molto contenta, al che ho dato di qualche soldo e l'ho presa in braccio perché era troppo carina, troppo bella. Massimiliano, senti, la tua storia, devo dire, oltre ad essere bella perché racconta di un legame umano molto forte, devo dire che rompe un po' dei tabù che sono molto maschili, no? Nel senso che tra donne, tra ragazze, è forse più facile raccontarsi che ci si vuole bene. Invece, per esperienza, no? Un po' i maschi, cioè, fai fatica a dire sei mio amico, insomma, vabbè, parlo per la mia cerchia, no? Di amici, persone che conosco. Invece è davvero, insomma, fai molto fluire questo sentimento di quasi di parentela, al punto che tu la definisci una seconda famiglia, li chiami come dei fratelli e un babbo argentino, praticamente. Sì, soprattutto col papà, con Daniel, è stato un amore a prima vista, diciamo così. È un sentimento forte, è qualcosa da... fai fatica a descriverlo così in due parole. Massimiliano, tu ce l'hai il tuo papà, cioè è vivo? Certo, io ho una famiglia normalissima. E lui la sa questa cosa, insomma, è un po' geloso? Ma lui, loro sono a conoscenza di questo, diciamo, di questa situazione, no, tutt'altro, sono molto contenti. Considera che ogni... a Natale e a Pasqua soprattutto ci tengono tantissimo a sentirli, anche se non si capiscono, perché i miei genitori non parlano una parola di spagnolo, ovviamente, e tantomeno Daniel e gli altri parlano l'italiano, meglio, ricordano qualche parola perché loro sono di origini italiane, ma però ci tengono a sentirsi, non so come fanno a capirsi, ma in qualche modo ci arrivano, si comunicano, sì. Tra l'altro, Massimiliano, la cosa che notavamo prima rileggendo la tua storia era che tutta questa cosa nasce alla fine grazie, per banalizzarla, grazie a Diego Armando Maradona, nel senso che il tuo amore per l'Argentina, la tua fascinazione da ragazzo per l'Argentina nasce da lì, nasce da lui. Beh, guarda, per noi campani è stato un qualcosa di eccezionale, è ovvio, poi anche credo che tutto questo sia nato anche grazie al calcio, che è in grado di abbattere ogni tipo di barriera. Tu giochi ancora a pallone, Massimiliano? Io gioco ancora, mi sono un po' fermato, ho rimesso il piatto dell'indice, il piatto articolare del dito, ho perso un po' la funzionalità della mano, mi sono appena rotto i legamenti del ginocchio, ma insomma, non sì. Mi arrendo, okay. Nel senso, mi diverto con gli amici quando posso. Prima di salutarti, tu sei insegnante di sostegno, quindi l'insegnante di sostegno fa qualsiasi materia, giusto? Sta vicino a... No, l'insegnante di sostegno si occupa particolarmente degli alunni in difficoltà. Chiaro, ma con loro tu li segui in qualsiasi materia? Sì, in qualsiasi okay. materia, sì. Da quanto lo fai? Sono 5 anni e sono appena passato di ruolo. Sono uno di quei fortunati che ce l'ha fatta da poco okay. a lasciare il precariato. Massimiliano, beh, complimenti e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi per avermi dato la possibilità di raccontare la mia storia. Sei sempre qui, buona giornata. Buona giornata, ciao. Ciao, grazie. Siamo sempre qui, è il titolo del prossimo programma, se vogliamo. È venuto in mente adesso. Quando avremo 70 anni, Margherita è già disperata. Quando avremo 70 anni, io e Bonini arriveremo qui col bastone. Paolino sarà a casa a gestire. In spiaggia, scusami. E siamo sempre qui. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata. Sono appunto Paolino Corleone, Tiziano Bonini, Margherita Ina. E siamo sempre qui. Guarda, è già arrivato. Grazie soprattutto a Massimiliano. Grazie a lui, la storia di oggi era la sua. E anche lui è un punto rosso su una mappa. E siamo sempre qui. Comunque, siamo sempre qui. Salve, io sono Liliana, abito a Maddaloni e la storia di domani è la mia. Parla di uno stato d'animo molto particolare che ho trovato tornando dopo tanti anni nel palazzo in cui abitavano i miei nonni. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.